Episodio 13. 19:20. Ascolta il servizio radiofonico. E andiamo avanti parlando appunto di questa faida di Camorra, di questa guerra di Camorra che vede opposto appunto Paolo Di Lauro e i suoi accoliti ai cosiddetti scissionisti. Si riapre un capitolo, quello della criminalità organizzata che si riassesta facendosi la guerra al suo interno, che pensavamo fosse ormai passato, uscito di scena, invece torna con tutta la sua violenza. Ne parliamo per capirne meglio i contorni con Salvatore Scarpino, autore tra l'altro di una ricca storia appunto della Camorra e conoscitore più in generale del fenomeno dell'organizzazione criminale, quella di stampo mafioso, che a seconda delle nostre regioni italiane prende poi dei nomi diversi, come sapete la 'Ndrangheta in Calabria, la Sacra Corona Unita in Puglia e appunto la Camorra in Campania. Buonasera Scarpino. Buonasera. Allora le chiedo subito, proprio alla luce degli ultimi sviluppi, che idea si è fatto lei di questa nuova esplosione di lotte, di violenza all'interno del appunto clan organizzato della Camorra nel napoletano? Direi che non c'è nulla di nuovo. Come è stato ricordato, questi regolamenti di conti interni alle organizzazioni criminali sono in un certo senso ciclico e possono dipendere da diversi fattori. Ci può essere, come in questo caso sembra certo, una sorta di lotta di classe tra quelli che sono i manovali o comunque vengono remunerati come tali nell'organizzazione criminale, i quali pretendono una fetta più larga di denaro. Ma ci possono essere anche contrasti di natura generazionale. Più volte abbiamo sentito parlare nelle varie mafie di scontri fra vecchie e nuove mafie, dove in realtà di nuovo non c'è assolutamente nulla, perché la mentalità e il ricorso alla violenza rimangono uguali, ma c'è l'emergere di nuovi gruppi dirigenti, per usare una similitudine che vale per la società civile. In effetti le società criminali sono il riflesso speculare, negativo, tenebroso, sotterraneo della società civile. Sono il riflesso dell'economia pulita con la loro economia sporca. E ci sono gli stessi contrasti che in una società civile si risolvono attraverso la concorrenza e attraverso strumenti politici di mediazione. In una società criminale finiscono sempre nell'uso delle armi. E poi bisogna dire che quando scoppiano queste guerre, naturalmente in ogni Stato c'è un allarme fortissimo e in genere lo Stato moderno ha i mezzi, l'invasività, la capacità per imporre la sua legge, per fare rispettare la legge. Quindi è prevedibile che adesso ci sarà una vigorosa controffensiva, diciamo così, delle forze dell'ordine e Napoli potrà respirare meglio. Il problema vero è un altro: quanto tempo durerà questo accenno di quiete?